in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ci aggiorna sulla questione del fallimento. Si è detto spesso che in Italia la legge che avevamo sul fallimento era inadeguata, ora è stata completamente riformata, e quindi il titolo, con tutti gli approfondimenti a pagina 3, fallimento si cambia su controlli e creditori, gli obiettivi, emersione dalla crisi, specializzazione e concordato. La fotonotizia è dedicata al cosiddetto Singles Day, che si sono inventati i cinesi a circa metà degli anni 90. È stata una cosa nata un po' per scherzo nell'università di Nancino. Il giorno scelto era l'11 di novembre perché era fatto da quattro numeri uno, quindi l'idea appunto della singletudine, è diventata in realtà un po' una scusa, una festa dello shopping, e ieri è stato raggiunto un nuovo record, ce lo racconta poi Laura Galvani. Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce e quindi anche mondiale, ha, pensate, venduto per $1 miliardo in 2 minuti, queste le transazioni avvenute appunto con questa scusa della festa dello shopping dei singles, e sicuramente non sono stati solo i single a comprare. Una interessante analisi che poi trovate a pagina 17, richiamata in copertina, sugli utili delle aziende quotate. Pensate, in borsa finora, utili oltre 8 miliardi, l'80% delle cosiddette blue chips, cioè le aziende più grandi, ha battuto le stime degli analisti, e nel terzo trimestre c'è stata una crescita media dei profitti del 31%. Questi sono infatti i giorni in cui vengono pubblicati i bilanci del terzo trimestre, quindi anche dei primi 9 mesi dell'anno. Il Corriere della Sera: manovra snella, Gentiloni frena l'assedio dei partiti. L'avete sentito anche nei GR, le dichiarazioni di Paolo Gentiloni, che è intervenuto ieri a Bergamo, dove ha incontrato anche il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. E poi c'è la questione della Tari, quello che viene definito il caos Tari. Si scopre che probabilmente molti di noi in molte città hanno pagato per più di un anno, tra l'altro più del dovuto, per questa tassa sui rifiuti. La fotonotizia però è quella di una portaerei, la portaerei Reagan, una delle 3 portaerei americane impegnate nelle esercitazioni anti-Corea del Nord, il reportage di Lorenzo Cremonesi nella base che prepara la guerra. La Repubblica invece si concentra sulle questioni tutte interne al centro-sinistra, in particolare al PD. PD Bersani, l'ultima trattativa, così Renzi apre alla sinistra. Ci sarebbe allo studio, secondo i vari retroscena della Repubblica, un accordo tecnico con MDP, appunto il partito fondato da Bersani quando ha lasciato il PD, per quello che riguarda altri personaggi della galassia del centro-sinistra che potrebbero far parte di questa trattativa. C'è anche Emma Bonino, e qui è intervenuto il presidente del Partito Democratico Orfini, che ha detto: sulla questione dei migranti stiamo appunto facendo un percorso con Emma Bonino. La fotonotizia però è dedicata alla manifestazione, anche qui l'avete sentito nel GR, che si è tenuta ieri a Ostia, secondo Repubblica si può riassumere con queste parole: no a mafie e fascisti. L'Espresso in edicola come ogni domenica insieme alla Repubblica, da 3 numeri è diretto da Marco da Milano, perché Tommaso Cerno è diventato con direttore della Repubblica. La copertina di questa settimana è dedicata a Silvio Berlusconi, con questo strano titolo Crono Silvio. Perché? Perché come il dio Crono appunto divora i suoi eredi, Renzi, Di Maio e Salvini, punta a un nuovo tempo del suo regno. E poi c'è un'intervista dell'Espresso a La Vitola, lo ricorderete Tommaso La Vitola, ex direttore dell'Avanti, che dice: così Berlusconi pagò 500.000 euro per incastrare Fini. Tra l'altro la vicenda di Gianfranco Fini, in particolare della casa di Monte Carlo appartenuta ad AN quando Fini ne era il numero uno, Alleanza Nazionale, e poi sapete venduta a un prezzo di favore per far sì, sostanzialmente riassume, una vicenda molto complessa e non del tutto chiarita, che il cognato di Gianfranco Fini avesse un particolare vantaggio, cioè il cognato di Gianfranco Fini, perché dico la vicenda torna d'attualità, perché come sapete è stato arrestato a Dubai perché la polizia ha scoperto che Giancarlo Tugliani era latitante dopo che si era lamentato di essere infastidito da una troupe della Sette, e su questa vicenda poi troveremo tante interviste interviste a Massimo Giletti, che questa sera debutta con il suo nuovo programma sulla 7. Erano appunto giornalisti di quella trasmissione che hanno, tra virgolette, importunato Giancarlo Tugliani. La Stampa invece ha un titolo diverso, perché Matteo Renzi ha scritto alla Stampa per cercare di mettere un po' d'ordine su queste nuove dichiarazioni sul fallimento di Banca Etruria. Renzi, due punti, Banca Etruria, alibi per azzerare ogni critica. In questa lettera, che poi trovate a pagina 4 della Stampa, Matteo Renzi ribadisce che bisogna chiarire il ruolo della vigilanza sulle venete. E torniamo alla questione della commissione d'inchiesta sui fallimenti delle banche, che sapete avrà ancora pochissimo tempo. Una delle critiche che viene mossa a questa iniziativa è che forse questa commissione andava istituita 2 anni fa, cioè quando si sono cominciati ad avere i primi fallimenti, i primi crack. Adesso istituire una commissione in una commissione parlamentare di un Parlamento che è in scadenza vuol dire evidentemente non dare il tempo a questa commissione perché faccia il suo lavoro. Ultima segnalazione prima della pausa, per dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul metodo, ve la faccio dall'Avvenire, perché da una parte c'è l'apertura sul rapporto Caritas che parla dei livelli di povertà nel nostro paese e Roma viene definita una vera emergenza. E poi ci sono due reportage interessantissimi, uno dal Venezuela, altro paese in profondissima crisi di cui abbiamo smesso di occuparci, ma ovviamente la crisi non è finita. E da qui il reportage: Venezuela ora si vive di traffici, cioè di contrabbando per avere i generi di prima necessità, medicine comprese. E dall'altra un reportage da Gorizia, dove c'è questo tunnel dei senza meta, cioè gli esuli respinti e accampati. Ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Il Messaggero si dedica alle novità legislative, ma non come il Sole 24 Ore, concentrandosi sulla legge del fallimento, ma su alcuni altri dettagli, in particolare il famoso super ticket della sanità. E poi c'è anche un accenno ai commenti che ha fatto ieri Gentiloni. Fotonotizia dedicata all'incontro che c'è stato in Vietnam tra Vladimir Putin e Donald Trump, dove probabilmente la questione più interessante dibattuta tra i due leader di Russia e Stati Uniti è stata quella della soluzione politica in Siria. Poi vi segnalo Quotidiano Nazionale, Il Giorno, che poi è Il Resto del Carlino in Emilia Romagna, La Nazione a Firenze, perché ha uno speciale dedicato a FICO, che è quel nuovo parco agroalimentare che si è aperto alle porte di Bologna, aprirà tra poco anche al pubblico. È un unicum al mondo, dove appunto si può, deve essere una specie di, e lo stesso Farinetti l'ho sentito dichiarare anche qui a Radio 24, ha detto che non ha alcun problema con la definizione di Disneyland del cibo, dove appunto si può vedere sostanzialmente tutta la filiera, le varie filiere agroalimentari italiane. Il Giorno apre con un'intervista a Silvio Berlusconi. Il titolo scelto è "Non toccate Draghi". Ci sono state molte illazioni sul fatto che le accuse a Banca Italia e anche alla Consob sono anche un modo per attaccare Mario Draghi. Secondo Silvio Berlusconi, appunto, Mario Draghi, attuale presidente della BCE, deve restare, la sua figura deve restare senza macchie, senza paura. Il Giornale si concentra sulla questione della Tari, che oltre alla Tari il Giornale ha fatto un'inchiesta e ha concluso che ogni anno il fisco incassa 13 miliardi tra IRPEF, TARSU e IVA, che in realtà sono per errore. Naturalmente il problema è che prima vengono incassati e poi bisogna penare non poco quando si ha diritto per avere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. La Verità apre sulla beffa della tassa sui rifiuti gonfiati, quindi la questione della Tari, di cui sicuramente continueremo a occuparci finché non si troverà una soluzione. E poi la fotonotizia dedicata a Massimo Giletti, che, come vi dicevo già nei giorni scorsi ma ancora anche oggi, ha rilasciato molte interviste legate a questo suo debutto stasera sulla 7, in un programma che si chiamerà Non è l'Arena, perché quello che invece aveva sulla Rai si chiamava appunto l'Arena. Il manifesto dedica l'apertura, l'ha fatto notizia il titolo, edizione straordinaria, alla manifestazione che c'è stata a Ostia. Tutto, sapete, ha origine dal, diciamo, lo spunto è stato quell'episodio di cronaca dell'esponente del clan Spada, Roberto Spada, che ha dato una testata spaccando il naso a un giornalista della RAI che gli faceva alcune domande. Questo Roberto Spada resta in carcere e c'è stata ieri una prima manifestazione, ma questo fatto di cronaca ha fatto capire il disagio di Ostia, dove tra l'altro domenica prossima si voterà per il ballottaggio, perché domenica scorsa si è votato appunto per rinnovare il municipio di Ostia. Libero invece torna un po' sulla questione, non tanto con i dati della Caritas, ma con un'inchiesta fatta da una giornalista di Libero, Paola Tommasi. I dati erano pubblicati su Libero di ieri, sulla questione della povertà in Italia. Crescono i poveri a Roma, più immigrati a Milano. E ci sono due editoriali, uno è di Azzurra Barbuto, che è originaria della Calabria e che da una parte si rallegra perché in alcuni paesi, in alcune città italiane, naturalmente soprattutto del nord, in particolare Bergamo, Brescia e Verona, c'è una disoccupazione bassissima, e dall'altra naturalmente deve constatare che invece in Calabria, secondo molte classifiche, oltre a quelle sulla povertà, ma per esempio quelle sulla qualità della vita, pubblicata qualche settimana fa dal Sole 24 Ore, che Azzurra Barbuto cita, la Calabria purtroppo è sempre in fondo a queste classifiche. Invece l'altro commento, l'altro editoriale di Vittorio Feltri, direttore di Libero, che anche in questo caso dice: la voglia c'è, a mancare sono le possibilità, evitando quindi appunto la facile conclusione: siccome al nord c'è la piena occupazione, o meglio, siccome al nord non c'è disoccupazione, invece al sud ce n'è tanta, vuol dire che al sud non hanno voglia di lavorare. No, naturalmente non è così, è semplicemente che il lavoro non c'è. Il Fatto Quotidiano titola come il manifesto sulla manifestazione che c'è stata a Ostia: tanta gente con Movimento 5 Stelle e sinistre. Poi un approfondimento su, ma anche su altri giornali c'è, devo dire, su questa, quella che viene definito lo scandalo Weinstein all'italiana. Il riferimento naturalmente è con Weinstein, al produttore americano ex super boss della Miramax, che è stato accusato di molestie ma anche di stupri. Potrebbe anche essere arrestato a New York, quindi lì è stato un po' l'inizio di tutto. Ora c'è una parte italiana di questo scandalo sulle molestie sessuali, in particolare nel mondo dello spettacolo e del cinema, ma non solo, che vedrebbe coinvolto il regista italiano Fausto Brizzi, che però ieri ha negato che le accuse abbiano alcun fondamento. Andiamo alle pagine interne prima di passare poi ai supplementi domenicali. Vi dicevo l'approfondimento di Laura Cavestri a pagina 4 del Sole 24 Ore su questa sprint dello shopping online in Cina, ma questa festa dei singles, poi girando per Milano ieri me ne sono resa conto, un po' come in questa era globalizzata, un po' come Halloween, che era una festa solo americana, è diventata una festa anche europea. E se pensate, il Natale viene celebrato in paesi che non ne vedono assolutamente il significato religioso, e quindi anche questa festa in realtà probabilmente di anno in anno verrà così ricordata e festeggiata, che poi festeggiare con lo shopping forse non tutti sarebbero d'accordo appunto di accostare questa parola con l'idea di fare shopping, ma in ogni caso 1 miliardo in 2 minuti, e sono cifre che fanno impressione. La domenica del Sole 24 Ore, quindi da una parte gli incontri a tu per tu, questa settimana Francesco Prisco ha incontrato Ennio Morricone, che è uno dei più grandi compositori contemporanei, nato a Roma nel 1928, viene definito in realtà il più grande compositore italiano di colonne sonore, pensate, ne ha lavorato a 500 opere diverse, e come ha già dichiarato anche quando ha avuto l'Oscar alla carriera, il suo in realtà gli resta una grande delusione, che è quella di non aver avuto l'Oscar per la colonna sonora del film Mission. L'altra parte della domenica del Sole 24 Ore, il viaggio nel futuro, nel lavoro del futuro di Luca De Biase, questa settimana è dedicato a questa azienda Billy Blue, che è un progetto di vendita online di giochi con valore aggiunto pedagogico. E quindi, per una volta, visto che ieri abbiamo sentito anche, e peraltro dichiarazioni che vengono oggi riprese, abbiamo sentito uno dei cofondatori di Facebook dire che Facebook rende insomma non è positivo per le menti più giovani, e quindi a volte appunto demonizzazione di tutti dei social network o comunque di alcuni aspetti della rivoluzione digitale portata dalla diffusione di internet, e qui invece se il digitale è al servizio del fatto bene. Sul Corriere della Sera un'anticipazione su questi Paradise Papers, che sono l'inchiesta degli giornalisti investigativi di cui avremo un assaggio oggi con Report, ma qui ce n'è potremmo dire un preassaggio. Ne parlano Mario Gerevini e Milena Gabanelli alle pagine 6 e 7 del Corriere della Sera. Paradise Papers, centinaia di nomi italiani. Poi c'è un'intervista a Giuliano Pisapia sulla questione delle divisioni all'interno del centro-sinistra. Adesso ancora, perché questa frase con così piccole variazioni l'abbiamo sentita talmente tante volte nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, che secondo me ha perso di significato. Cioè, di nuovo la richiesta, il leader PD faccia uno sforzo di umiltà, naturalmente Renzi. E poi Grasso, il presidente attuale, ancora presidente del Senato, che è uscito dal PD, ha detto che però non è stato lui a uscire dal PD, ma il PD a uscire da lui o qualche cosa del genere. Insomma, continuano anche queste polemiche, cioè sul fatto che la seconda carica dello Stato in questo momento abbia preso questa posizione politica abbastanza chiara, potremmo dire. E poi dice che sul progetto MDP e un'eventuale alleanza con MDP, l'ex sindaco, perché Giuliano Pisapia è stato sindaco di Milano prima che arrivasse Beppe Sala, dice: non mi rassegno alla sconfitta. A pagina 19 si riprende la questione di Fausto Brizzi, come vi ho detto, e qui su questa questione io domenica scorsa ho fatto l'errore di cercare di riassumere un po', purtroppo il tempo è sempre poco, il pensiero su questo scandalo delle molestie sessuali, e sono anche stata abbastanza fraintesa quando ho citato il fatto che ci siano tantissimi richiami sessuali in giro. Non voleva assolutamente dire, ci tengo a sottolinearlo, che penso che questo sia una giustificazione per alcun tipo di molestie. Segnalavo soltanto appunto che il sesso è davvero ormai il richiamo sessuale viene usato per qualsiasi cosa, per promuovere qualsiasi cosa. Spesso quando ne chiedo conto magari a chi è responsabile anche a chi è a capo di un'azienda o di un marchio, mi si risponde: ma perché le campagne pubblicitarie sono quasi tutte fatte da uomini. Ma era così uno spunto di riflessione appunto su questa pervasività dei richiami sessuali anche per vendere prodotti che con il sesso non hanno niente a che fare. Ci fermiamo un attimo per la pausa sul traffico e poi alcune altre poche, perché non c'è tempo, segnalazioni dalle pagine interne dei giornali e poi supplementi domenicali. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ancora un paio di segnalazioni dalle pagine interne dei giornali. Su Repubblica due pagine sulla questione della partita con le rivelazioni contro Weinstein negli Stati Uniti, il domino delle molestie. Domino perché, come abbiamo anche detto, dagli Stati Uniti si è passati all'Europa. Adesso c'è un caso Blatter, l'ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, che viene accusato di molestie dalla Hope Solo, che è il portiere della nazionale di calcio americana. Tra l'altro c'è una foto pubblicata forse già ieri anche da qualche giornale che dice tutto, perché c'è Hope Solo con questo fisico statuario che ha, che è alla premiazione della FIFA nel 2013, di fianco c'è Blatter che la fissa con uno sguardo che già solo quello sguardo forse in un certo senso è molesto, se non proprio di molestia si tratta. Ma passiamo ai supplementi domenicali. Cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Parlare e prende spunto da una citazione di Goethe, che è questa: parlare è un bisogno, ascoltare è un'arte. Nelle lingue neolatine, se vogliamo definire una realtà irrazionale, stravagante, incoerente e insensata, usiamo il termine assurdo, che deriva da sordo. Non saper ascoltare l'altro, scrive Ravasi, diventa sorgente di incomprensione e persino di follia. Sembrerebbe a prima vista un'esperienza facile. In realtà molti confondono l'ascoltare col sentire. Lasciarsi attraversare da flussi di parole e suoni non significa accogliere o respingere un messaggio, vagliandolo, penetrandolo e giudicandolo. È significativo che nel lessico della Bibbia, che è pur sempre il nostro grande codice non solo spirituale ma anche culturale, un unico verbo ebraico, shama, e greco, hypakouein, indica contemporaneamente ascoltare e obbedire. Per questo ha ragione Goethe quando in una delle sue massime riflessioni sopra citata ci ammoniva che aprire la bocca e parlare è alla fine una necessità, non di rado solo fisiologica, quasi scollegata dal cervello, mentre ascoltare è un'arte. Cioè un esercizio che nasce da una scelta, un'attenzione, un'adesione, un'arte sempre meno praticata a partire dai talk show televisivi che sono appunto un irrefrenabile bisogno di parlare, di chiacchierare e non certo di ascoltare e capire. La copertina vera e propria però è un lungo articolo di Alberto Negri che torna sulla questione della Turchia. Anche qui ne abbiamo parlato tanto quando ci sono stati fatti di cronaca, ma ora cosa stia succedendo davvero in Turchia forse nessuno lo sa, e quindi il titolo di questo lungo racconto di Alberto Negri, Ogni luogo diventa Taksim. Taksim naturalmente è Piazza Taksim nel cuore di Istanbul, che ha fatto da sfondo a tutte le svolte della storia turca di questi decenni, e dal carcere o in esilio ora gli intellettuali, ci racconta Alberto Negri, riscrivono le vicende del loro paese e di questa piazza simbolica. Tra l'altro vi segnalo che sia la domenica del Sole 24 Ore che la lettura del Corriere che Robinson danno molto spazio a questi appuntamenti che ci saranno dal 16 al 19 novembre all'interno di una manifestazione che si chiama Book City, che non è un salone dell'editoria ma proprio una serie di incontri dove si parla di libri, ma non solo i libri, sono uno spunto, e quindi anche appunto su tutti i supplementi trovate spunti, anticipazioni su quello che ci sarà a Milano dal 16 al 19 novembre. Vi segnalo però nella pagina di Scienza e Filosofia della domenica un articolo di una recensione di Paolo Legrenzi a un libro appena uscito per Bollati Boringhieri che si chiama Percezioni, come il cervello costruisce il mondo, e il titolo della recensione è Aprirsi alle illusioni. Perché? Perché il sistema visivo non è una copia della realtà esterna, l'evoluzione lo ha ricostruito per consentirci di agire fuori degli schemi. Un altro intervento a proposito appunto di Book City, perché questa è sostanzialmente una recensione del libro che verrà poi presentato il 18 novembre, si intitola Nuove disuguaglianze e parla di questa nuova classe media, chiamiamola così, perché c'è una... lo sappiamo, ci è stato detto da tantissimi economisti e da tantissimi studi, crescono molto le differenze tra chi è molto ricco e chi è molto povero, e chi sta in mezzo alla classe media è per forza di cose a sua volta impoverita. La lettura, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Carlos Garaikoa, una illustrazione divisa in tre. Dall'interno vi segnalo questo bellissimo libro. Oggi corro a comprarmelo, e che tra l'altro appunto anche questo verrà presentato durante Book City, per la precisione sabato prossimo il 18 novembre. L'estratto che ne viene pubblicato è di Edoardo Boncinelli, perché il libro è scritto da Edoardo Boncinelli insieme a Massimo Arcangeli, Le magnifiche 100, dizionario delle parole immateriali. E la cosa bellissima che mi affascina, e adesso leggerò con calma, è che la parola di queste 100 che la lettura ha scelto per parlare di questo libro è la parola coerenza. Molto interessante anche per chi appunto magari ha un po' la passione come me di questi libri che comunque sono delle enciclopedie in un qualche senso. Questo è di Tim Harford e si intitola 50 cose che hanno fatto l'economia moderna. Anche in questo caso ce n'è un'anticipazione sulla lettura, e una di queste 50 cose scelte da Tim Harford è la carta. Cambiò la storia, ma adesso quella carta gode di troppo credito, e qui insomma ci riguarda, visto che si discute molto del ruolo della carta all'interno all'interno di un sistema di informazione o di diffusione della cultura. E da qui questo bellissimo racconto, l'Assemblea di Condominio dei Libri, che racconta come nel 2013 l'intraprendenza di un radiotecnico in pensione ha portato alla creazione della prima biblioteca all'interno di un palazzo. C'erano 300 volumi, ora sono diventati 6.000 e oltre a questa iniziale di questo palazzo ne sono nate altre 8 solo a Milano, e la nona si inaugura il 16 novembre appunto in occasione di Book City. Un'ultimissima segnalazione, perché il tempo è davvero quasi finito: Robinson, il supplemento culturale della Domenica della Repubblica, che racconta, il titolo è tutta un'altra storia, 170 storici raccontano il paese in un modo nuovo. Dall'interno però vi segnalo anche qui secondo me una bellissima notizia, Fare i conti con il festival, che spiega, Stefano Bartezzaghi spiega come dall'estate romana in poi le manifestazioni culturali nei centri storici sono state accusate di essere effimere, ma le ricerche degli economisti spiegano quanto valgono e perché sono molto convenienti, oltre che secondo me divertenti. Basta saperle organizzare bene, pensando a chi le deve frequentare e non magari appunto alle star, anche alle star culturali che vi partecipano. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi al 349 238 6666, grazie a Peter Bescapè in regia, ancora una buona domenica a tutti.